Cronache dalla periferia, rimaniamo sintonizzati, cerchiamo di fare più dirette possibili in questi giorni un po' complicati, quindi magari oggi pomeriggio riusciamo a fare anche un altro giro di telefonate, perché ieri con questo bellissimo cavo, cari compagni, abbiamo inaugurato le telefonate via radio. Insomma, dopo una brevissimo spam a tutto e tutti i canali che abbiamo, ora dovrebbero saperlo tutti che siamo collegati, quindi ringraziamo Stefano che è venuto a trovarci per rispondere alle domande della prima pillola. Ciao Stefano. Ciao. Magari giusto per... io non sono un medico, quindi... Quindi basta, andiamo via, ciao. Però tutte le informazioni che verranno date durante questa diretta sono o informazioni di cultura generale che si trovano tipo su libri di liceo, oppure informazioni che mi sono state fornite da un medico di base alla quale ho chiesto delucidazioni e mi ha spiegato un po' di cose. Bene, bene, bene, siamo contentissimi. Quindi, ricapitolando, praticamente stiamo cercando di mappare, grazie alle radiotelefonate, un po' la situazione quotidiana di questi giorni, perché ovviamente c'è anche tutta una parte di solitudine, di paura, di, tra virgolette, empatia che si crea nelle persone. Quindi cerchiamo di tenere gli occhi ben aperti. Oggi pomeriggio magari facciamo qualche telefonata. In questo caso io e Stefano siamo a debitissima distanza. Non riusciamo neanche a guardare. Meno male che occhi. Abbiamo sugli occhiali, perché sennò sarebbe... Sì, io quasi quasi un binocolo avrei bisogno per vedere dov'è Stefano. Quindi ovviamente mascherine, tutti quanti, cose storie. E quindi possiamo anche cominciare con l'inizio di questa question. Ok. Allora, nella prima domanda che è uscita sulla pillola di ieri abbiamo la differenza tra virus e batteri. Allora, i batteri sono delle cellule, in particolare sono dei cellule procariote che sostanzialmente hanno il DNA sciolto dentro qualche organulo cellulare e basta. Sono appunto delle cellule che entrano nell'organismo tramite la bocca, ma più di frequente tramite dei tagli, e possono infettare. Mentre il virus è, diciamo, non è neanche un organismo, nel senso che è una striscia di materiale genetico dentro un involucro, come se fosse una corazza. E su questa corazza c'è un, come se fosse un recettore, che permette al virus di entrare dentro una cellula, e il DNA che costituisce il virus si, diciamo, attacca al DNA della cellula e obbliga la cellula a produrre altri virus, limitando le sue funzioni vitali normali. Quindi quando tante cellule sono infettate da un virus, diciamo, iniziano a funzionare sempre di meno e ci sono sempre più virus in giro. I batteri invece si riproducono per mitosi, cioè da una cellula, quando ha abbastanza energia, se ne formano due, e l'energia la prendono mangiandosi, diciamo, materiale organico, che siano cellule, che siano... Ogni batterio, ogni virus, tra virgolette, è specializzato per colpire una parte dell'organismo. Per cui, non so, delle infezioni polmonari batteriche, quel batterio lì è più specializzato a colpire le aree polmonari. Un altro tipo di infezione batterica, così. Stessa cosa per i virus. Una cosa che viene subito da chiedersi è quali medicine funzionano con dei batteri e quali con dei virus. Infatti poi è la seconda domanda, qui stiamo arrivando. Ci sono delle medicine efficaci contro i batteri e delle medicine efficaci contro i virus. All'inizio, quando è venuta fuori questa cosa, mi ricordo benissimo che i medici sconsigliavano, nel momento in cui si risultassero i primi sintomi, quali un comune raffreddore, una tosse, di non prendere l'antibiotico. Vogliamo parlare anche di questa cosa? Io sono rimasto abbastanza... Ho letto, e come molti e molte, ho detto ok, va bene. Io generalmente non sto mai male. È difficile che durante il periodo invernale abbia qualcosa, tanto da prendere una medicina o appunto un antibiotico. Però sconsigliavano ovviamente di prendere antibiotici generici, quelli che si hanno in casa e che si prendono comunemente per sconfiggere un'influenza. Sì. In realtà, perché il coronavirus è un virus e l'antibiotico è una di quelle medicine che agisce sui batteri, quindi è completamente inutile prenderlo, anzi è paradossalmente dannoso, perché se uno prende l'antibiotico senza avere un'infezione rende, diciamo, immuni all'antibiotico più facilmente dei batteri, quindi è più facile che poi quando ti infetti non funziona bene l'antibiotico. Cosa si usa con i virus, visto che l'antibiotico non è la medicina adatta? Non ci sono vere e proprie medicine che combattono i virus. Per alcuni hanno trovato quelli che sono chiamati antivirali, ma in realtà non c'è un corrispettivo dell'antibiotico. La cosa che di solito si fa è vaccinarsi prima che ti ammali. Perché come funziona il vaccino? Il vaccino è l'involucro senza la parte di DNA o RNA dentro, che quindi è del tutto innocuo, ma ha il recettore sopra, e il nostro sistema immunitario impara a riconoscere quel recettore lì e costruisce le sue difese senza che poi ci sia un reale virus nel corpo. Ma se io non sono vaccinato e becco un virus, cioè allora sono spacciato? Domandone. In realtà dipende. Cioè, questa cosa che fa il nostro sistema immunitario con il vaccino la fa pure col virus autentico. Il problema è che se il virus è molto aggressivo non fa in tempo a preparare queste difese. Oppure se il nostro corpo non è nella condizione di salute ottimale, fa più fatica, e quindi anche una malattia poco aggressiva, un virus poco aggressivo risulta molto dannoso ugualmente. Quindi la cosa che si può fare è, tra virgolette, conservare le energie e cercare di stare il più in salute possibile, quindi mangiare in maniera, non so, sana, non fare attività fisica eccessiva, eccetera eccetera, e aspettare che passi. Sì, sono i consigli base che hanno dato molti medici. Tra l'altro ci sono stati poi ovviamente in mezzo a questi consigli, Stefano, mi raccomando, io sono messo peggio di te, non sono neanche proprio lontanamente un medico, forse posso essere un infermiere veterinario per la mia esperienza, quindi ti dico cagate, fermami all'istante. Però ci sono stati molti problemi nel momento in cui, se colpite le persone anziane, queste persone vengono rinchiuse in casa, non prendono neanche una boccata d'aria ogni tanto, c'erano pareri discordanti sulla reclusione. Le persone anziane è giusto che ogni tanto prendano una boccata d'aria per far andare il corpo, eccetera. E ci sono stati anche molti pareri riguardo a molti medici che, nel momento in cui è scoppiata questa cosa, ed è scoppiata nella maniera peggiore, e per questo dobbiamo ringraziare tutto l'apparato mediatico italiano che ha fatto su un bel casino. All'inizio c'è stata molta paura e molti medici hanno preferito consigliare l'evitare di continuare ad assillarsi sullo stesso tema, perché se il cervello soffre, di conseguenza anche il corpo non sta tanto bene. Le difese immunitarie vivono anche delle nostre vibrazioni, delle nostre positività, quindi non far finta che non ci sia il problema, ma ossessionarsi costantemente ogni 5 minuti a scovare la notizia peggiore, a continuare a ricercare negatività e appunto magari trovarla, anche perché è un momento molto delicato, non fa bene l'accanimento, non fa bene a livello mentale e psicofisiologico, io penso. Esatto. È corretto? Esatto, sì, cioè ci sono alcune condizioni che indeboliscono il nostro sistema immunitario. Una di queste è proprio lo stress, cioè quando uno è molto stressato tendenzialmente è detta male, però è come se il nostro corpo si stesse attrezzando per combattere lo stress e quindi desse dell'importanza a potenziare il sistema immunitario. Certo, io personalmente soffro di malattie psicosomatiche, perché mi rendo conto che in periodi in cui sono più stressato il mio corpo reagisce in un certo modo e caccia fuori, ovviamente. E sì, altre, già che ci siamo, altre situazioni che possono indebolire il sistema immunitario: la carenza di sonno prolungata, l'attività fisica intensa a livello agonistico molto molto serrata, insomma tutte le situazioni che mettono alla prova un po' l'organismo, tutte le situazioni che il capitalismo ci invoglia a ad attuare, tant'è che l'ipervelocità, l'iperconnessione, la costante prestazione che siamo chiamati a produrre ogni giorno, forse ha fatto sì che ci trovassimo in un momento in cui non riusciamo a fermarci, anzi si imboglia la città in un momento in cui dovrebbe magari calmarsi un attimo a non fermarsi. Questo è un chiaro riferimento al Comune di Milano, a tutti i post che decidono di trasmettere in un momento in cui ancora non si capisce bene come gestire la situazione e si possono fare soltanto danni. E quindi sì, i consigli sono sempre comunque di cercare di riposare il più possibile. Mi riallaccio a una cosa che c'entra ma non c'entra. Vi consiglio un libro che si chiama Jonathan Crary, e ha scritto questo libro, questo americano, che si chiama Il capitalismo all'assalto del sonno. È molto interessante, ne abbiamo parlato anche durante il ciclo di incontri di saperi autogestiti che è stato fatto qua a ZAM qualche mese fa. E proseguiamo? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo, parliamo un po' più di tecnico, ci prendiamo 2 minuti di pausa e vi lasciamo con la fine di questa Africa di John Coltrane. Intanto Fergi ha portato il caffè, grazie Fergi. I dei ti benedicano, ma... grazie mille. Non sul mixer, Fergi. Appoggiati pure. Tipo, che ho ragione, dobbiamo. Dove c'è internazione? Sì, dobbiamo mettere il tavolino, Fergi. Sì, lo metteremo. No, non è che grazie, sto Fergi. Dando il ragione, ma. No, no, ma certo, assolutamente. Intanto salutiamo tutti i compagni e le compagne che ci stanno ascoltando e supportando. Ciao a tutti. Cigo, mi raccomando, fai Instagram, poi ti do le chiavi. Ciao a tutti. Quindi, a proposito di compagni che fanno cose, possiamo anticiparlo, dei nostri compagni stanno andando a fare la spesa ai primi abitanti, perché sono una coppia del quartiere, e quindi si sono muniti di guanti, mascherine, disinfettante, e stanno andando a fare la spesa e a portarla direttamente a casa. Trovate tutte le informazioni sulla pagina Facebook del collettivo, ci sono questi bellissimi pannelli nuovi rossi che abbiamo fatto, solidarietà popolare, misud@gmail.com. Ok, e quindi andiamo avanti. Andiamo avanti con le nostre domande e risposte. Abbiamo deciso di suddividere la puntata ogni 3 domande, poi ci mettiamo una piccola pausa, vi mettiamo un po' di musica. Se avete dei consigli musicali da darci, siamo liberissimi di ascoltarli e trasmetterli. La prossima domanda è la differenza tra virus DNA e virus RNA. Allora, il coronavirus è un virus RNA ed è la stessa tipologia di un sacco di forme influenzali, dell'HIV e insomma di un po' di virus. Ce ne sono altri che invece sono virus DNA. La differenza sta nel... Prima abbiamo detto che il virus è un segmento di materiale genetico con una corazza intorno. A seconda di quale tipo di filamento c'è, sono RNA o DNA. Quindi se il filamento dentro è RNA saranno virus RNA, e se è il filamento DNA saranno dell'altro tipo. Questa sostanzialmente è la differenza. E non è che quelli di un tipo sono più pericolosi di quelli di un altro, dipende da... Stavo giusto per chiedertelo. Dipende da, insomma, dal tipo di malattia. Ebbene, andiamo avanti. Cosa vuol dire che un virus muta? Qui poi ho 2 o 3 domande anche che vorrei fare. La cosa più, cioè una delle cose che si sanno sul virus dell'HIV è che la difficoltà di curarlo... Scusate, non so se hai sentito Fergi quanto può essere molesto senza fare niente. La difficoltà di curare l'HIV è che muta molto spesso e quindi non si riesce a trovare la medicina corretta. Cosa significa che un virus muta? Significa che il suo filamento genetico, che sia di DNA o di RNA che c'è dentro, cambia la sequenza, e quindi cambiando questa sequenza cambia anche il, diciamo, l'identità tra virgolette del virus. La cosa a sbatti per il nostro sistema immunitario è che cambia anche il recettore sopra, e quindi gli anticorpi che si erano specializzati per combattere il virus con quel recettore lì non lo riconoscono più e devono rifare tutto da capo praticamente. Poi ad esempio il virus influenzale normale è uno di quelli che muta, però le mutazioni sono non così tanto rilevanti da diventare un reale problema, nel senso che i vaccini vengono rifatti ogni anno, però sono molto simili tra di loro, e anche il nostro sistema immunitario riesce a attivarsi meglio. Quello dell'HIV invece muta tantissimo, quindi diventa proprio molto diverso il recettore sopra, e bisogna rifare tutto. Poi vabbè, quello dell'HIV colpisce il sistema immunitario, cioè le cellule del sistema immunitario, quindi rallenta tutta la roba anche per quello, però è un altro discorso. Prima domanda da ignorante, forse da prendermi a schiaffi eccetera, ma nel momento in cui la mutazione è reversibile o meno, nel senso che il virus arriva, facciamo finta che il virus sia nato a livello 0, la mutazione a livello 1, c'è ancora del virus a livello 0 o una volta che è arrivato a livello 1 della sua mutazione è irreversibile? C'è ancora a livello 0, però a quel livello lì ormai il corpo è pronto. Perfetto. E quindi okay. non diventa più un problema. Quindi nel momento in cui si trova una cura è probabile che quella diventi direttamente obsoleta, perché il virus ha mutato e ha bisogno di però altre, diciamo, cure. Quello a livello 0 tende a diminuire perché il nostro corpo lo sta combattendo. Okay. Quindi alla lunga non ce ne saranno più. Okay. Momento di zia, è arrivato Macio. Salutiamo Macio in radio. Ciao Macio, buon caffè, buongiorno. Bene, grazie Stefano, possiamo andare avanti. E arriviamo alla terza domanda prima della piccolissima pausa musicale. Perché il coronavirus è così pericoloso? La domanda clou. Aspettavano tutti. Il motivo principale è che è nuovo. E quindi su tutti i punti di vista siamo impreparati ad affrontarlo. Sia il nostro sistema immunitario, sia che non c'è un vaccino e quindi non si può prevenirlo, sia gli stessi medici e gli stessi infermieri non sono così sicuri di qual è il decorso della malattia, e quindi insomma rende tutto più difficoltoso. Però secondo me può essere utile suddividere i livelli di pericolosità, cioè ad esempio a livello individuale la pericolosità è diciamo non è altissima, nel senso tutte le categorie a rischio, come gli anziani, come chi ha già una malattia, come insomma tutte le categorie a rischio, è un virus pericoloso perché il nostro corpo è insomma impreparato per affrontarlo. Per le persone non a rischio è pericoloso, però non è così virulento come, non lo so, è stato il vaiolo per l'America del Sud quando è arrivato Colombo, che lì nel giro di 2 settimane ha dimezzato la popolazione degli aztechi. Questo non è un virus del genere, ed è anche uno dei motivi per cui a livello comunità in cui si vive è abbastanza pericoloso, proprio perché non è così tanto mortale come virus, si diffonde molto di più, perché io posso avercelo e avere dei sintomi blandi, oppure proprio non avere sintomi e averlo, cioè, e passarlo alle persone che mi stanno intorno. Cioè, nel momento in cui un virus è più aggressivo mi ammazza prima che io possa portarlo in giro. Esatto. Penso che sia un po' questo il problema del coronavirus. Esatto. Che non ti ammazza subito, ma ha avuto il tempo di farsi un bel giro di, esatto, tutto il mondo. Cioè, diciamo che tendenzialmente non ti ammazza, cioè nella maggior parte dei casi non è mortale, sicuramente è molto debilitante perché abbiamo visto che insomma stiamo vedendo quello che succede, però non è un virus diciamo per chi è in salute mortale. Certo. Come possono essere altri delle epidemie del passato, diciamo. Poi io sono del parere anche, perdonami se ti interrompo, che indipendentemente da quanto un virus si presenti, è anche la risposta della nazione che va a colpire che fa la differenza, secondo me. Sì. Cioè l'idea che i due o tre articoli che ho letto oggi su un'ipotetica, ma non troppo ipotetica, epidemia in Africa, mi fa caponare la pelle. Se qui abbiamo reagito in questo modo, lì come possono fare? Bene, andiamo avanti. Sì, no, volevo aggiungere solo un'altra cosa. Sì, andiamo avanti. Che la il fatto che sia molto facile diffonderlo rende anche molto più facile che le categorie a rischio ne entrino a contatto. Anche per questo è, diciamo, a livello di comunità piuttosto pericoloso, perché appunto ce ne sono tante di categorie a rischio e quindi insomma la pericolosità è anche questa. Inoltre, a livello di organizzazione della società, se tante persone hanno bisogno di un aiuto sanitario, non è detto, come stiamo vedendo purtroppo, che il nostro sistema sanitario sia adeguato per fare fronte a questa cosa, cioè che materialmente ci siano abbastanza medici per stare dietro a tutti, posti letto, macchinari che servono e via dicendo. Quindi il fatto di evitare il più possibile il contagio non è tanto perché la totalità delle persone che si ammala muore, ma perché tanti di quelli che si ammalano, che sono quelli a rischio, oppure quelli più in difficoltà, invece rischiano. E non è detto che con dei sintomi che normalmente un medico o comunque un ospedale riesce a gestire, se ce ne sono così tanti non è detto che si riesca a gestirli tutti. Questo è, diciamo, il motivo per cui è così pericoloso. Vogliamo ricordare un attimo su due piedi quali sono quelle persone a rischio, quelle persone più sicuramente attaccate. Gli anziani, sicuramente chi ha un'altra patologia, vabbè, patologie croniche tipo il diabete, tipo insomma malattie croniche di vario genere, chi ha già un'altra malattia e sostanzialmente sono queste. Però soprattutto in un paese come l'Italia, in cui la popolazione di una certa età è una bella fettona della popolazione totale, infatti tra l'altro parlando con un mio amico ieri o l'altro ieri, lui mi diceva magari può essere che in un paese come l'Italia, che ci sono tanti vecchi, sia più, cioè si diffonda molto di più rispetto a, che ne so, anche solo in Cina, che magari i morti sono stati in proporzione di meno che da noi, perché lì magari ci sono meno vecchi, quindi... Certo, sì, no, comunque sono tutte statistiche e numeri che potremmo avere, ma sì, su cui poi bisogna sempre riflettere un attimo. In realtà poi io mi riferivo magari anche a tutta una serie di persone che escono fuori dai paradossi dei vari decreti. Mi faccio un esempio: nel momento in cui ci chiedono di stare in casa a una distanza superiore a un metro o addirittura chiusi nelle proprie stanze, mi chiedo, in un momento in cui una famiglia composta da un nucleo di 5 persone che vive in un bilocale cagato male, come può permettersi queste misure di sicurezza, vivendo anche con delle persone che sono più a rischio. I clochard, le persone che continuano a rimanere in strada. Oggi io spero venga smentita la notizia della multa della sanzione, che è stata data a un clochard stamattina a Milano. È uscita su 2 o 3 testate, ora voglio vedere se sono fake news che si divertono a clickbaitare tutti i nostri siti, a farci girare i coglioni, o altrimenti c'è un problema molto più profondo che scava nell'epidermide di questa come di altre città e come di vari abusi di potere che abbiamo già visto e che siamo abituati ad osservare ogni giorno. E poi altre categorie di persone. Certo, poi c'è da dire che c'è tutta un'altra fetta di gente che io vedo, ho visto al parco fino all'altro ieri, che piangeva disperata perché gli si impone semplicemente di stare a casa, magari quando ha dei figli o delle persone anziane, fa: ah, sto ingrassando, guarda un po', mi metterò sulla televisione. Poi ci sono situazioni in cui magari l'emergenza sia sanitaria che o virale o in altre situazioni qua hai le bombe sulla testa e devi preoccuparti di averla una casa. Quindi da una parte abbiamo una diciamo delle persone che hanno bisogno di assistenza e altre, dall'altra abbiamo una popolazione che era abituata a un certo tipo di comfort zone, ora gli viene privata e sbarella, non riesce molto a capire questa cosa. Secondo me la tolleranza in questo momento è importante, riuscire anche ad avere un occhio critico e osservare quali sono le situazioni che sono mosse dalla paura più che dal raziocinio, che molte persone ora in questo momento sono estremamente spaventate, ma noi siamo qua per fare Lucita. Allora, ricordiamo a tutti che ci potete scrivere sulle pagine Facebook e Instagram per aggiungere delle domande, fare delle precisazioni su alcune cose che sono state dette, su cose che non sono state dette, avete voglia di condividere. Salutarci, mandarci a quel paese, insomma, usate i nostri canali, li trovate praticamente ovunque. E possiamo andare avanti con le domande. Ah, ecco, a proposito di domande, se avete delle cose che volete scriverci, che ci dite, noi ce le guardiamo durante il prossimo stacco musicale e quando riprendiamo la diretta proveremo a rispondervi, a delucidarvi. Quindi andiamo avanti e la prossima domanda è una domanda che mi sono fatto io proprio i primi giorni dei vari casi che sono venuti fuori in Italia, perché ovviamente nel momento in cui accade un avvenimento del genere mi viene naturale pensare che tutti e tutte facciano riferimento al proprio trascorso, iniziano a scavare nella memoria pensando: aspetta, ok, cosa sta per succedere, cosa mi devo aspettare, è già successo qualcosa? E ovviamente io, che ho 29 anni, quest'anno 30, mi sono fatto delle domande, ovviamente ho cercato di fare dei paragoni con quello che era il mio ricordo della SARS. Quindi la prossima domanda è: la SARS era meno pericolosa? Secondo me ci sono due aspetti. Uno mi è venuto in mente proprio ora mentre stavi parlando, ed è il periodo storico in cui sono usciti si sono contagiate all'uomo queste malattie. Nel senso che, se non mi sbaglio, la SARS era nei primi anni 2000. Quindi mi è venuto in mente, nei primi anni 2000 tendenzialmente le persone giravano molto di meno per il mondo di ora, e quindi insomma una malattia che magari usciva in Cina sicuramente viaggiava per vari paesi, ma in maniera molto meno endemica rispetto ad ora. Ricordiamo che soltanto nel 2001 la Cina è entrata nella World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi è quella che regola il libero mercato globale, diciamo. Quindi da quel momento in poi la Cina è la maggiore esportatrice di qualsiasi tipo di cose che si producono, praticamente, quindi esporta in tutto il mondo. Da quel momento lì i contatti dalla Cina al resto del mondo sono stati molto maggiori, ma in generale, diciamo, anche soltanto le trasferte di lavoro rispetto ad adesso, 20 anni fa, erano molto meno frequenti, quindi c'era meno possibilità di interagire. Stefano, il turismo, Airbnb, cioè i viaggi a 5 euro low cost delle compagnie aeree, ma di cosa stiamo parlando? Qui siamo in un contesto in cui ovviamente i ping pong tra una nazione e l'altra dei singoli, degli individui singoli, sono all'ordine del giorno. Io conosco gente che riesce a lavorare a Pechino il martedì, a Dubai il giorno dopo, esatto, e a Miami il mercoledì, per poi tornare a Milano, magari che ha l'appartamento e rimane qua altri 3 giorni, poi si fa un altro giro. Infatti poi le prime notizie subito allarmavano la questione degli aeroporti e dei viaggi, oltre che di andata, perché ovviamente si è pensato: il virus è in Cina, blocchiamo i viaggi per la Cina. Ma si è pensato, non so per quale strano motivo, infausto motivo, che fosse anche di ritorno. Anzi, forse era più sbatti. Forse era più sbatti quello. E quindi questo è uno, secondo me, dei motivi principali per cui la SARS si è diffusa di meno. L'altro motivo, a quanto mi ha spiegato questo medico con cui ho parlato, è che la SARS era una di quelle più aggressive, quindi che la mortalità delle persone che la prendevano era molto più alta, e quindi uno che la prendeva aveva meno possibilità di passarla ad altre persone. Quindi però la SARS oggi avrebbe fatto un disastro, probabilmente. Sì, okay. Sì. Cioè, in realtà magari ci sarebbero stati, sto ipotizzando, magari certo, ci sarebbero stati più morti in meno tempo, però poi si diffondeva di meno, nel senso che uno aveva i sintomi subito. È il discorso che facevamo prima. Esatto, quindi però sì, probabilmente sarebbe stato un degenero. Bene, andiamo avanti. E la prossima domanda, ricordiamo ovviamente ai nostri ascoltatori che se avessero delle domande, delle precisazioni o semplicemente per salutarci, potete scrivere ai nostri canali e durante gli stacchetti musicali leggeremo tutti i vostri messaggi e risponderemo alle vostre domande. Bene, andiamo un po' più nel pratico. Sì. Ci sono state svariate istruzioni e vogliamo anche capire un po', sviscerare un po' queste istruzioni che ci vengono date. Ovviamente qui continuiamo a dire che utilizziamo tutte le misure, però le misure continuano a cambiare, quindi ci iniziamo a fare delle domande. Nel momento in cui hai delle misure oggi che vanno assolutamente in contrasto con quelle misure che sono state date magari 4 giorni fa, ci rendiamo conto del caos in cui ci troviamo e c'è bisogno di fare chiarezza. Sì. Si è parlato molto di guanti. Partiamo dalle mani. Okay. A cosa servono i guanti? Che tipo di guanti si usano? Perché il contatto è sbagliato? Allora, il tipo di guanti è qualsiasi tipo di guanto usa e getta che sia, diciamo, impermeabile, con di tessuto impermeabile, quindi di plastica, di lattice, ma l'importante è che sia usa e getta, nel senso che una volta che uno ha utilizzato i guanti, se poi li riusa un'altra volta si porta in giro il virus che ha bloccato sul guanto, diciamo. A cosa servono? Servono a... diciamo, ovviamente le mani sono le cose che toccano più robe, sia in giro sia su noi stessi, per cui ad esempio non so, ad esempio chi come me ha il viziaccio di mangiarsi le unghie, idem, avere le mani col virus è un bello sbattimento, però anche chi, cioè chiunque in automatico si gratta gli occhi, quindi se il virus noi l'abbiamo incontrato in giro ed è sulle nostre mani, grattarsi gli occhi è un problema. Se io però quando ero in giro avevo i guanti, quando li tolgo le mie mani sono come se non fossero mai uscite, diciamo, e quindi sostanzialmente servono a questo. Va bene, andiamo avanti. E quindi dopo che si passa alle mani, ovviamente abbiamo la mascherina FFP3. Oggi io, giusto per curiosità, sono andato su Amazon a vedere un po' FFP3. Ah, ok, quindi FFP3, 2P. Ah, FPP3. Bene, chi ha fatto il cartello? Andiamo avanti. Oggi, giusto, mi chiedevo del fatto di andare a controllare un po' il prezzo di queste mascherine. Siamo arrivati su Amazon ad avere due o tre rivenditori su 50.000 che ce le hanno ancora, e siamo sui 247 euro più o meno alla mascherina. Ci sono delle mascherine che non sono FPP3 ma sono FPP2. Sì. FFP3, ok, ha ragione lui in realtà. Quindi rinominiamo FFP3. Si trovano online le FFP2. In quel caso mi viene da pensare che non abbiano le stesse caratteristiche della 3, siano un po' inferiori. E se quelle viaggiano sui 45-47 euro a mascherina. Comunque, sto cazzo. Esatto, quindi... mascherina FFP3 e mascherina da chirurgo, che sono quelle tendenzialmente verde acqua che si vedono in giro, o sbaglio? Esatto. Perfetto. Che differenze hanno e che efficacia hanno entrambe? Allora, la FFP3 è in assoluto la più ermetica. Cosa significa ermetica? Sostanzialmente è un filtro che fa passare soltanto l'aria e nessun altro tipo di particella. È quella che si usa, ad esempio, nei cantieri con l'amianto. È quel tipo di mascherina lì, perché proprio blocca qualsiasi tipo di cosa che non sia gas. E quindi questa è sicuramente l'unica mascherina che ti previene il fatto di tu prendere per bocca il virus, diciamo, per naso il virus. Le FFP2 sono praticamente uguali, ma hanno il filtro meno denso, quindi ci passa più roba. Le FFP2, quelle che si usano per andare in bici quando c'è smog, quindi comunque bloccano un botto, non bloccano del tutto, quindi non sei al 100% bloccato con l'aria depurata tra virgolette dentro la mascherina. Perché possono essere utili comunque le FFP2 e anche quelle da chirurgo? Perché quelle riducono tantissimo la possibilità che se io ho il virus lo possa passare a qualcun altro, perché il virus che io espiro rimane dentro la mia mascherina e non si espande in giro per l'aria, diciamo. C'è un sacco di gente che dice: cavolo, ma allora me lo continuo a rimettere addosso? Vabbè, tanto ormai ce l'hai. No, però la questione ovviamente più seria, secondo me, in questo momento è riuscire a uscire da sé un minimo, riuscire a guardare al di fuori del proprio naso e capire di essere delle potenziali delle potenziali bombe che portano in giro il virus. Per quelle fasce di persone che abbiamo già ripetuto prima, sono le più vulnerabili. Sì. Quindi in realtà, piuttosto che non avere niente, è consigliato avere anche quelle da chirurgo. Ma quindi una domanda che uno potrebbe farsi è: ma quindi se io sono in un posto con tanta gente e ho la mascherina da chirurgo, sono, diciamo, protetto? No, non sei protetto. Cioè, tu se ce l'hai, non mandi sbatti gli altri, però esatto, non sei protetto. Esatto. L'unico modo in cui tu puoi essere protetto è se tutti hanno sulla loro mascherina. In quel caso allora è molto bassa la probabilità, non è zero perché comunque l'aria esce, però è molto bassa. Penso che sia difficile ridurla a zero. Ridurla a zero vorrebbe dire metterci in dei monolocali bellissimi che Airbnb ora non sta usando. Esatto. Ci infiliamo tutti lì dentro, ci facciamo una nostra quarantena di 2 settimane con militari super forniti di tutte le misure di sicurezza che ci portano da mangiare e magari anche ci fanno qualche battuta per ridere e passare il tempo. In 2 settimane è ovvio che passa tutto. La vita non è questa, però. Cioè, diciamo, i medici che sono in ospedale non è che quindi sono. Beh, però loro hanno la mascherina FFP3, gli occhiali, quelli ermetici, tipo mascherina da sci o maschera e boccaglio sugli occhi che tengono gli occhi al riparo dall'aria fuori, e il tutone, cioè il camice intero tutone addosso. Così sei sicuro che al 100% sei immune, però. Diciamo che con le precauzioni delle mascherine più le altre indicazioni che hanno dato sei comunque relativamente tranquillo, certo, anche quando vai in giro. Poi ci sono un sacco di foto. Detto questo, non è che allora easy andiamo tutti in giro, no. Cioè, stiamocene per i cazzi nostri. Però quando vado a fare la spesa o a fare ste robe qui, se prendo le giuste precauzioni il rischio si abbassa tantissimo. Assolutamente, sono pienamente d'accordo. E, però ci sono stati ovviamente dei casi molto bizzarri da quando è iniziato tutto, di persone che andassero in giro veramente bardate da cyberpunk. Ne è uscita una ieri su un profilo Instagram che vi consiglio, che si chiama Iconografie XX1, Iconografie 21° secolo, e c'è un ragazzo dietro che sta facendo un lavoro molto, molto forte, perché poi è da solo e rievoca ogni giorno qualche immagine di questo momento storico che stiamo passando. Ovviamente la pagina arriva da prima, ora si sta più concentrando su questo tipo di problema, e stanno uscendo delle immagini molto bizzarre, soprattutto per quanto riguarda tutta la parte destra dell'emisfero, di tutte una più bella dell'altra, per rientrare proprio in una logica cyberpunk. Quindi il futuro è arrivato praticamente, siamo in un momento in cui i film di fantascienza non sono più film di fantascienza. E io sconsiglio vivamente a tutti e tutto di guardare adesso film di fantascienza per farsi venire soltanto più ansia e altro, perché non sono formativi. Considerate che la narrazione cinematografica la maggior parte delle volte per quel genere cinematografico racchiude tensione, picchi alti di suspense, e moltissima cagarella e un sacco di informazioni molto pompate, molto diciamo di finzione. Quindi prendetele con le pinze, se volete farvi un bagno di film post-apocalittici, mi raccomando, fatelo col sorriso, non fatemi venire semplicemente più ansia. Tipo, uno che a me è venuto in mente proprio immediatamente è Il pianeta delle scimmie, quando arriva, cioè che l'infezione che ha le scimmie rende più intelligenti, ma gli umani li secca, inizia a passare al primo uomo, poi questo qua va in aereo da un'altra parte, ciao. Ovviamente è molto più distopico e irreale della situazione di ora. Invece a me piace farmi i bagni verso tutto quello che è il cinema, un po' più di pensiero, e io non sto pensando altro in questi giorni che a Melancolia di Lars von Trier. Quindi vi consiglio di farvi una bella guardata di Melancolia di Lars von Trier, soprattutto la scena finale, quando è la consapevolezza dell'apocalisse, quando è la consapevolezza della fine. E lui è riuscito, secondo me, a trasmetterlo. Ovviamente poi il film può piacere o meno, però in questi giorni si ha un po' quella sensazione di apocalisse, di fine, eccetera. Bisogna avere consapevolezza, portare solidarietà e farsela passare, perché sarà lunga. Noi siamo qua a farvi compagnia. Andiamo avanti? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Abbiamo... Anzi, lasciamo uno stacchetto musicale, perché siamo arrivati alla 9ª e ultima domanda. Okay. Poi c'è la domanda bonus che abbiamo pensato prima di iniziare a trasmettere. Quindi facciamo una breve pausa musicale e ci risentiamo fra poco. Iniziamo a leggere magari anche le cose che ci avete scritto. Salutiamo tutti i compagni e le compagne che ci stanno ascoltando, tutte le persone da casa, e a voi una bella canzone. We'll be right back. scusate per l'attesa, però iniziano i dibattiti accesi qua e dovremmo rendervi partecipi, però magari poi diciamo cagate assurde, quindi vi rendiamo partecipi lo stesso adesso. Quindi rimane l'ultima domanda. Poi vediamo il bonus come trattarlo. Sì. L'ultima domanda è: situazioni tipo e pericolosità, visto che appunto siamo in questo clima di emergenziale, non vogliamo andare avanti a cospargervi di emergenza, ma vogliamo cercare di farvi razionalizzare un po' la situazione. Questa situazione tipo e pericolosità. Allora, una situazione tipo che diciamo noi potremo vivere più direttamente noi come diciamo collettività di Milano Sud è quella di fare la spesa per delle persone in difficoltà. Situazione tipo: io devo uscire, andare al supermercato e portare la spesa a casa di una persona che me lo chiede. Pericolosità, cioè come limitare la pericolosità? Sicuramente la cosa più importante è lavarsi le mani prima di uscire di casa, mettere i guanti prima di uscire. Uscire quando sei all'aperto, comunque tenere la distanza di sicurezza che è stata detta dalle altre persone, e in realtà la mascherina quando sei all'aperto serve, ma tanto quella FFP3, se siete i fortunelli che ce l'hanno, bene, però gli altri con quella da chirurgo o la 2 non serve tenerla, perché se c'è il virus ti arriva lo stesso, quindi E non hai nessuno da contagiare perché sei in giro da solo. Perché sei in giro da solo. Quindi all'aperto la cosa più importante è sicuramente i guanti, stare lontano da altre persone in giro e ok. Quando si entra nel supermercato, noi siamo già avvantaggiati che abbiamo sui guanti, quindi le nostre mani sono diciamo immuni, comunque disinfettate, mettiamola così. Può essere utile mettere sulla mascherina, perché in uno spazio chiuso l'aria gira di meno e le cose che succedono rimangono lì, diciamo, per più tempo. Si fa la spesa coi guanti e, fatta la spesa, una iper precauzione potrebbe essere togliersi i guanti, disinfettarsi le mani se si ha il disinfettante oppure anche no, e cambiare i guanti in modo tale che si arriva con anche i guanti che abbiamo cambiato, che non hanno toccato tante cose, a casa della persona a cui dobbiamo portare la spesa. E invece per quanto riguarda le mascherine, quelle da chirurgo, quelle base, andrebbero cambiate una volta al giorno. In teoria almeno. Sono usa e getta. In teoria. Okay. Poi, cioè, giustamente non è che uno ha milioni di mascherine a disposizione, direi proprio di no. Quindi in teoria sarebbero usa e getta, non si può tenere la stessa mascherina per un tempo infinito, perché comunque poi, cioè, ad esempio se io ho respirato dentro la mascherina e quella mascherina rimane lì, comunque potenzialmente piena di virus che io ci ho respirato dentro, diciamo. Ovviamente uno si chiederà: ma che cazzo uscite a fare, vi hanno chiesto di non uscire, però non dobbiamo semplicemente limitarci a quella che è la nostra vita, ma dobbiamo renderci conto che c'è una grossissima fetta in questa città, come in tutta la nazione, come dappertutto, di persone che hanno dei seri problemi a compiere anche quelle che sono per noi le cose più quotidiane, che possono essere fare la spesa, stendere, farsi da mangiare qualcosa. Ovvio, l'assistenza, quella magari un po' più, tra virgolette, mi viene da dire, mirata delle attività casalinghe, non viene effettuata nel momento in cui non si hanno le dovute precauzioni. Fare la spesa, lasciare la spesa sul pianerottolo, o anche semplicemente fermarti. Io oggi stavo scendendo verso Milano Sud, ho visto una scena in cui un vecchietto in carrozzina, spinto da un altro vecchietto che riusciva a camminare, sono incastrati in un buco. Io dico, nel momento in cui ero protetto, mi sono fermato 2 secondi ad aiutare una situazione che, ma come avrei fatto normalmente? Le protezioni, se vengono usate, dovrebbero automaticamente eliminare qualsiasi tipo di paranoia, di contagio. Non è una cosa che ti attacca alla gola, ti prende tipo Venom e torni a casa e ce l'hai, oppure hai ucciso 5 persone nel tuo passaggio. Sì, esatto, cioè il per te personalmente, in quella situazione lì che aiuti i due vecchietti, non è tanto pericoloso, cioè nel senso puoi prendertela, però se non è troppo pericoloso, è molto più pericoloso per i due vecchietti che rischiano, se tu sei magari nella fase di latenza prima o comunque ce l'hai asintomatica, gliela puoi passare, però in quel caso con la mascherina addosso Loro erano bardati dalla testa ai piedi. Probabilmente era l'unico momento in cui riuscivano a uscire e hanno pensato bene di farlo con tutte le dovute precauzioni, perché volevano uscire in quel momento o comunque avevano delle commissioni da fare. In questo momento io vedo le poste intasate più che i supermercati. Mi preoccupa più il fatto che certe persone rimangano senza dei servizi che gli permettono poi di andare avanti in quello che è l'economia del loro nucleo familiare. La spesa la fai, mangi con quello che hai a casa, ti organizzi, magari ci sono appunto delle situazioni di solidarietà eccetera che possono aiutare, però ci sono anche una serie di servizi molto importanti che in questo momento sono congelati, e ci stiamo avvicinando secondo me un po', con tutti i discorsi che abbiamo fatto, a quella che è la risposta della domanda bonus. Abbiamo una domanda bonus che abbiamo pensato prima di iniziare a trasmettere. Vai Cesa, la domanda bonus era: ma quando si capisce che un'epidemia è finita? Allora, diciamo che ci siamo appena entrati, quindi esatto, prendiamola anche noi con le pinze. Diciamo che la Iaffi, correggimi se dico delle cazzate, la curva di contagio è come una gaussiana, cioè è una curva che sale, arriva a un picco e poi scende. Noi non siamo ancora arrivati al picco, quindi siamo nella fase in cui i contagi crescono. A un certo punto i contagi iniziano a decrescere fino a che poi non ce ne sono più. Come si fa a capire quando non ce ne sono più? Il problema è proprio questo, che essendo un virus sconosciuto non si sa come andrà avanti. Grazie a Dio noi abbiamo comunque un sistema sanitario che funziona e che comunque riesce a gestire, o almeno fino adesso è più o meno riuscito a gestire, i casi gravi. Dico grazie a Dio perché nel passato, molto passato diciamo, quando queste cose non c'erano, quando arrivava una malattia che si diffondeva ed era epidemica, si capiva quando finiva, perché ad esempio con la peste che c'è stata intorno all'anno 1000 in pianura padana è morto più della metà della popolazione, no? In quel caso lì, quando finisce l'epidemia, quando tutti quelli che non sono riusciti a sconfiggerla muoiono e gli altri che sono riusciti a sconfiggerla ormai sono immuni e ciao. Grazie a Dio noi non ci troviamo in una situazione così, quindi inizierà a un certo punto, dopo il picco, a scendere il numero di nuovi contagi, fino a che, diceva, ci spiegava Iax prima, fino a che non sarà che ogni persona a livello statistico contagia meno di una persona al giorno. In quel caso lì, piano piano, il numero di persone nuovamente contagiate si ridurrà, e quindi fino a arrivare a zero. Poi abbiamo anche i soldi adesso, perché hanno sganciato. Il signor Conte ci ha detto che lunedì sono arrivati un po' di danè e speriamo vengano finalmente usati per qualcosa che abbia senso. E intanto vi mettiamo una bellissima canzone dei Daft Punk, e ci sono arrivati dei contenuti da leggere. Sì, molto molto succulenti, molto molta ciccia, quindi a fra poco. Eccoci tornati, sono le 12.40 e abbiamo ricevuto un bellissimo messaggio. Abbiamo ricevuto un interessantissimo contributo che, col consenso della persona che l'ha mandato, leggeremo in diretta. Ci ha scritto una mail, perché questa persona non ha, che è Orso, possiamo anche salutarlo. Ciao bello! Non ha Instagram e non può usare Facebook al lavoro, lui è uno dei lavoratori e delle lavoratrici costretti e costrette a andare al lavoro, quindi leggiamo il suo contributo. Scrivo qui che non ho né Facebook né Instagram. La cosa che più mi sta infastidendo in questi giorni, oltre all'ansia generalizzata, all'autoreclusione forzata, alle ingiustizie lavorative esplicitate al massimo in questo momento di emergenza conclamata e riconosciuta da tutte e tutti, è il continuo appello alla responsabilità. La responsabilità di non uscire, perché in caso contrario diventiamo responsabili della diffusione del virus, o diventiamo responsabili del fatto che non ci sarà un posto in terapia intensiva. Ok, va bene. A fronte del fatto che queste considerazioni possono essere vere, non ne possiamo fare una questione di responsabilità. Il popolo italiano, o comunque un'immensa parte di esso, è stato responsabile, ha lavorato, pagato le tasse, attraverso il quale lo Stato avrebbe dovuto organizzarsi per gestire questa situazione e tante altre. Ora che ci troviamo in questa situazione, restiamo sempre noi responsabili di qualsiasi cosa? fatemi capire, io lavoro, pago le tasse, poi mi ammalo per sto cazzo di virus, non mi possono curare perché non ci sono posti e la responsabilità dovrebbe pure essere mia. Che vadano a fare in culo governanti senza nessun coraggio, che anche in questa situazione scaricano sulle persone la responsabilità. Sappiatelo, uno Stato che non si fa direttamente responsabile della tutela seria dei propri cittadini non si può più nemmeno definire tale. Non scordiamoci di queste cose e una volta tornate alla quiete facciamogliela pagare cara. Ringraziamo per questo bellissimo contributo. È una figata ricevere messaggi mentre chiacchieri, così si interagisce. Dobbiamo trovare anche nuovi canali per farlo in modo più semplice, più immediato. Sì. Vi invogliamo a mandarci messaggi, a mandarci brani, da mandare qualsiasi cosa, idee, spunti, se avete dei progetti, tutto quello che vi pare. La radio è accesa e cerca di rimanere in diretta il più possibile. Anche oggi pomeriggio magari qualcuno dei nostri compagni e nostre compagne riesce a passare qua per farvi compagnia. E questo è quello che ci va di fare, quello che ci viene più spontaneo a fare, e non riusciamo a recluderci. Ovviamente Cesa è a 5 km da me, però certo. ci salutiamo con la mano. Quindi vi mandiamo l'ultima canzone di questo momento. Ringrazio Stefano per essere passato qua a illuminarci. Sicuramente adesso il Ministero della Salute ci chiama, ci dice: no, lo vogliamo anche noi, assolutamente, qua risolviamo subito il problema. E vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori? Che cioè, alla fine, queste informazioni non sono, cioè sono informazioni appunto pescate nei libri di scienze del liceo e che ho chiesto al mio medico, quindi cioè anche per abbassare questo clima di tensione possiamo semplicemente fare queste cose, informarci in maniera anche semplice. Se non c'è il libro di scienze, non lo so, ci sono dei siti scientifici divulgativi che spiegano queste cose, e poi chiedete al vostro medico, pensatevi a delle domande da fargli o farle e chiedeteglielo. Evitate di informarvi su Facebook, fondamentalmente. Esatto. Che è una grande paranoia. Sì. Poi magari ci andate, cioè ci fate un salto sicuramente, però rimanere soltanto lì forse può essere dannoso più che... Poi diciamo che secondo me per abbassare il livello di ansia o preoccupazione che uno ha, cioè conoscere il proprio nemico aiuta a combatterlo. Minchia che massima. No, no, guarda, questa aiuta a combatterlo meglio. Sono troppo contento che abbiamo registrato questa, me la prendo proprio 10 secondi, me la estrapolo. E quindi, semplicemente avere delle conoscenze di base può essere utile anche per ragionare su questa cosa o avere un pensiero su questa cosa, più rassicurante o più utile anche per tutti. Vi lasciamo con un bellissimo brano degli Aldum and the Firehearts, a fra poco sulle frequenze di Radio ZM. E siamo tornati subito perché è arrivato un altro messaggio e non siamo più nella pelle, vogliamo comunque comunicarvelo, quindi era una fake news quella che abbiamo chiuso. Siamo ancora qua, ovviamente qui non ci muoviamo proprio mai, certo. Perché comunque le 8 ore di diretta magari non trasmettiamo proprio le 8 ore, però poi si pensa, si fa, insomma, la radio ieri l'abbiamo completamente, come posso dire, svuotata, pulita e riassemblata, quindi ora è proprio un upgrade fantastico a parte questo bellissimo riverbero che sento nel microfono. Quindi Stefano, dici tutto. Allora, mi ha scritto un compagno che vive in Sud America, il Melmo, che sta a Montevideo. Gli ho chiesto un po' lì com'è la situazione e come se la stanno vivendo, eccetera eccetera. Lui mi dice che cioè, nei media o comunque tra la gente se ne parla di brutto, quindi diciamo che il livello di preoccupazione si può, possiamo dedurre che c'è anche lì, però non ci sono ancora stati casi né hanno preso provvedimenti di nessun genere. Ma stanno pensando di chiudere le frontiere, quindi di non permettere a nessuno di entrare e uscire dall'Uruguay. Che vabbè, lì gli va bene che hanno un sacco di vacche, fanno delle grigliate pazzesche. E quindi a livello di cibo sono autosufficienti, però è peso, sì. Rimaniamo sempre con gli occhi aperti, sempre a cogliere più informazioni possibile, anche riferito appunto a quello che dicevo stamattina sull'Africa. Vediamo un po' come va nei prossimi giorni, e noi nel nostro piccolo cerchiamo anche nella nostra metropoli di rimanere in contatto, quindi compagni e compagne, preparatevi alle telefonate del pomeriggio. Vi risalutiamo, abbiamo trovato un brano molto più idoneo, grazie a Stefano, e tutto per voi, Sangue Misto, Clima di Tensione. La tensione sale ogni giorno di più, pure quando accendo la mia tele viene su. Cico fa brutto, perché le iene adesso sono dappertutto. E un tot di gente si fa il viaggio tipo Ku Klux Klan. Vogliono spaccare come Superman, oppure Van Damme. Paiura, l'odio manda in para, l'aria che respiro tesa vera. E quando si fa buio senti il canto delle iene. Nella mia città le strade sono piene, meglio stare accorti. Dove me la giro e me la giro sotto tiro. Sono lo straniero nella mia nazione, sai che c'è. La repressione schiaccia e non fa più per me. Ding dong, piglia male quando suona la campana. La tensione sale e cresce con la luna. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male però, e quando accuso la pressione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male però, e quando accuso la pressione. Questo è il clima di tensione. Sale fumo scuro, il gioco si fa duro, perché nessuno è più al sicuro. Nelle case, con le luci sempre accese, e fuori 10.000 cani sciolti per le strade. Con la spotta di svoltare, penso prima a me, perché tempo per scherzare non ce n'è, non ce n'è. Sai perché la storia è tesa? Rimango a bocca chiusa tra la gente, pensieri alla rinfusa nella mente. Non mi lasciano capire chi sta dalla mia, ma chi è fuori resta fuori e quasi sia. Motivi di discordia scritti con il sangue. Tiro un'aria strana, la scena si confonde. Vivo coi fratelli questi tempi di guerra. Sento la pressione che ci schiaccia per terra. E questa è la mia situazione, senza soluzione per il clima di tensione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male però, e quando accuso la pressione. Questo è il clima di tensione. Preso male vero, e quando accuso la pressione. Vivo come vivo, clima di tensione negativo. Sopra la mia pelle come un adesivo. La situazione non si affronta più. Spilli nel mio corpo tipo rito voodoo. Cico cazze, cazze. Dietro la tensione chi c'è? Chi vuole il buio tutto intorno a me? Chi dice che è sbagliato quando sono blu? E cerca sempre un buon motivo per tirarmi giù. Cico senti bene, sono lo straniero tra le iene. Scorre sangue misto nelle vene. Porto i segni della repressione, confusione. C'è qualcuno nella testa di un guaglione. Come un'ombra alle mie spalle non mi lascia mai. Oh, Cico già so, già sai, ne fa il nome. Sono il cane sciolto per l'azione. Tocca stare allerta in questo clima di tensione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male vero, quando accuso la pressione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male vero, e quando accuso la pressione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male vero, e quando accuso la pressione.